La fine dell'uomo. Un ciclo di 6 appuntamenti all'insegna della fantascienza radicale. Ogni seconda domenica del mese, a Piano Terra, Milano. Questa è la registrazione del quarto incontro del 14 aprile 2019. Parliamo di autodistruzione nucleare, con Domenico Gallo. Benvenuti e benvenuti a tutti a questo quarto appuntamento della rassegna La fine dell'uomo. E dopo aver parlato di antropocene, capitalocene, disneificazione del reale, evoluzione catastrofe, oggi l'argomento è autodistruzione nucleare. E nelle cene preparatorie che abbiamo fatto per questo evento, una delle cose che è emerse è che ci sembra un argomento ormai lontano, passato. Io sono nato nell'87, probabilmente concepito durante Chernobyl, e l'argomento non è uno di quegli argomenti che diciamo ha coperto tanto l'attualità negli anni e anche a livello della narrativa dei film. Quindi abbiamo deciso come prima cosa di farvi immergere in questo immaginario che si è un po' perso, e quindi abbiamo preparato giusto una sorta di bombardamento visuale per voi per cominciare questo appuntamento. Un paese su gigante uscite dell'acqua e due ne vennero creati nel corso dell'operazione. Ora abbiamo due neutroni per scindere due anni. Ciò implica una prospettiva favolosa, una reazione nucleare a catena nell'uranio. Credo che immaginerete però che accadrà. Guardate. Una reazione atomica a catena avviene esattamente nello stesso modo. Un singolo neutrone è sufficiente ad iniziarla. Il genio atomico era libero e la sua forza devastatrice ci poneva di fronte ad una tremenda minaccia. When the flash hit you, you could see the X-rays of your hands through your closed eyes. To say it was frightening is an understatement. We were basically used guinea pigs. There's no other word for it. The threat of nuclear war hasn't been this high since the Cold War. We will have no choice but to totally destroy Earth 3. The world would not be the same. Sopravviveranno più a lungo dopo una guerra nucleare? E quale sarà il destino del genere umano? Questo è un modello del vero Nautilus, la prima nave a propulsione atomica. È il primo esempio di utilizzazione dell'energia dell'atomo che accelererà le macchine dell'era atomica. L'atomo è il nostro futuro. È un soggetto che ognuno desidera capire. Quindi ci sembrò un importante argomento per un programma sul mondo di domani. Di fatto lo considerammo così importante che ci imbarcammo in diversi progetti atomici. Tra l'altro, facemmo i piani per costruire una mostra a Disneyland che vi farà vedere l'energia atomica in azione. Most people have little knowledge of what goes on in a nuclear plant and couldn't care less until something goes wrong. Il disastro è avvenuto nella centrale nucleare di Chernobyl, 130 km a nord di Kiev, capitale della Repubblica Federata Sovietica dell'Ucraina, che ha 1,5 milioni di abitanti. Un forte vento che spirava verso nord ha spinto la gigantesca nube radioattiva verso i paesi della Scandinavia. Qui siamo ad Helsinki, queste immagini sono state riprese mentre vengono effettuati alcuni controlli. Tutta la serata e la nottata, ogni sforzo per capire qualche cosa di più attraverso indizi, segnali o informazioni era inutile. La radioattività vola già nell'atmosfera, soprattutto cesio 137 e iodio 131. Si estende per ora in Giappone, oltre Fukushima, su un fronte di oltre 100 km, raggiungendo l'area di Tokyo. Il ministro della Sanità, Degan, ha adottato alcune misure precauzionali. Per 15 giorni è vietata la vendita al pubblico e il consumo di verdure fresche a foglie. E la verdura, signora, ho preso male. It's the 20th anniversary of the meltdown of the Chernobyl reactor, which was the biggest nuclear catastrophe in human history, besides Hiroshima and Nagasaki. Even now, there's an area the size of Great Britain that's still radioactive. Nuclear energy is the future, then. If this is the future, then what the fuck? I am now in this place. Where you should never come. We call it Onkelo. Onkelo means hiding place. In my time, it is still unfinished, though work began in the 20th century when I was just a child. Work would be completed in the 22nd century, long after my death. Onkelo must last 100,000 years. Nothing built by man has lasted even a tenth of that time span. But we consider ourselves a very potent civilization. If we succeed, Onkelo will most likely be the longest lasting remains of our civilization. If you, sometime far into the future, find this, what will it tell you about us? Si chiedeva, era giusto appunto per settare un po' il tono della discussione e per, secondo me era un po' una questione per cercare di riavvicinarsi a un argomento che appunto sembra passato, ma che in realtà sia a livello è un qualcosa in realtà che ci si attacca addosso al nucleare, è qualcosa che sia a livello temporale che a livello spaziale mette proprio in crisi proprio l'uomo, perché si va dal minuscolo all'atomo alla appunto un'area grande come la Gran Bretagna che è ancora radioattiva a causa di Chernobyl, e anche la questione proprio del tempo, cioè adesso quest'ultimo pezzo è di un documentario che racconta la costruzione di questo deposito di scorie nucleari che deve rimanere per 100.000 anni. Le cose più antiche che sono state costruite dall'uomo risalgono a 4.500 anni, proprio mettono in discussione anche a livello temporale la nostra esistenza. E penso che questo possano essere un po' i punti di partenza per il dialogo che abbiamo con Nico Gallo, che è uno scrittore esperto di fantascienza, e tra le diverse cose è stato anche parte del collettivo di Un'ambigotopia, che è diciamo un po' il seme iniziale anche di questa rassegna, e ci racconterà appunto, ci porterà un viaggio sull'autodistruzione nucleare nella fantascienza. Grazie, intanto vabbè, sì, io mi occupo un po' di fantascienza anche dal punto di vista storico. C'è l'audio, no, togli l'audio da. E quindi grazie per questo invito, perché mi ha. Ho tolto l'audio anche il microfono. Ok? No, io ho la voce anche abbastanza forte, quindi potrei non usare. E mi ha fatto anche un po' riconsiderare quegli anni della fantascienza, che sono gli anni che vanno dalla fine della guerra tendenzialmente all'inizio degli anni 60, no? E anche così mi ha fatto venire in mente anche delle cose un po' nuove che non avevo mai messo assieme. Tendenzialmente la fantascienza, quando piace, quando è bella, è perché fa funzionare un certo meccanismo, no? Che dovrebbe essere il seguente. La fantascienza ci parla del nostro presente, ci parla del nostro presente trasponendo nel passato, nel futuro, trasponendo in una società che non c'è, quelli che sono le problematiche più importanti, quelle problematiche si usa dire che il realismo non riesce a esprimere con tutta la sua potenzialità, no? E quindi quando si accusa la fantascienza di mancanza di realismo, almeno quelli che come me, Antonio Carolina, erano delle persone che anche lui lavorava su questo tipo di ipotesi, e accusavano la fantascienza di non essere realista, e quindi c'erano state anche delle polemiche, soprattutto in Italia negli anni 70, intellettuali del Partito Comunista, per esempio, che adoravano una certa idea di realismo in un qualche modo, cioè che dovesse parlare delle cose della vita quotidiana. Beh, noi sostenevamo e sosteniamo che la fantascienza parla della nostra vita quotidiana, parla dei rischi, parla delle strutture, parla dei grossi temi che solo trasponendoli in un contesto che non è quello reale riescono a svilupparsi. Se noi crediamo a questo paradigma, a questo modello, come modello per la letteratura, per il cinema, noi ci dobbiamo chiedere perché la fantascienza del dopoguerra ha certe caratteristiche, no? Ora io questa cosa mi è venuta in mente troppo in ritardo, non l'ho preparata. Alla fine degli anni 30, quando siamo in epoca rooseveltiana, gli Stati Uniti sono ancora indecisi se entrare in guerra o non entrare in guerra, comunque escono dalla grande crisi del crack economico e quant'altro, e grazie a Roosevelt e agli interventi statali la nazione è rifiorita. In tutta la fantascienza delle riviste popolari viene fuori questa idea dell'energia nucleare, no? C'è una descrizione molto positiva. Questa viene legata all'interno della società statunitense anche a una trasformazione sociale in una nazione in cui molte persone diventavano tecnici industriali, tecnici delle fabbriche, tecnici della ricerca e sviluppo. E quindi questi nuovi eroi dei romanzi di fantascienza, tra questi eroi c'è lo scienziato nucleare. L'idea che la fantascienza porta alla fine degli anni 30 in queste riviste pulp, sono molto colorate e divertenti, è quella dell'idea di una società in cui l'energia non sia più un problema, no? E quindi ha un forte ottimismo. E l'idea è anche di una trasformazione di tipo politico, cioè i tecnici, e nasce un movimento politico che si chiama Movimento Tecnocratico, Technocracy Movement, che idealizza l'idea del tecnico come l'idea di una classe di lavoratori che nel futuro dovrà governare la società, perché tutti saranno dei tecnici, tutti avranno un'altra cultura e quindi la società sarà migliore perché sarà liberata dai capitalisti, dai politici e quant'altro, che in questa idea tecnocratica originale erano visti come dei parassiti. Un'idea molto popolare, ha un suo successo, non si riesce a sviluppare perché? Perché soprattutto l'idea più socialisteggiante di Roosevelt porta questo movimento politico a non avere muore quasi subito. Però per la fantascienza è importante perché l'editore delle riviste di fantascienza, un certo Hugo Gernsback, un emigrato belga che inventa le riviste di fantascienza, in realtà aderisce a questo movimento e è anche l'editore delle riviste del movimento tecnocratico, no? E quindi c'è alla fine degli anni 30 un grosso trasferimento tra questa politica, idea politica tecnocratica, togliere la fame del mondo, l'ottenimento della democrazia, il suffragio universale attraverso le macchine addirittura, e l'idea utopistica di un'energia a disposizione pulita e infinita. L'energia nucleare alla fine degli anni 30 nelle riviste di divulgazione è vista come un'energia pulita, semplice e che risolverebbe tutti i problemi della povertà del mondo. Quindi è sicuramente un utopismo molto, molto semplice, però è quello che si diffonde. Tenete conto che quando la rivista di fantascienza parla dell'energia nucleare, all'inizio non c'è energia nucleare in nessuna parte della Terra. La prima reazione atomica controllata mi pare che sia quella che fa Fermi nei sotterranei dell'Università di Chicago, e nel 1942 gli esperimenti che vengono fatti in Italia, in una famosa scuola, l'Istituto di Fisica di Via Panisperna, che portano il Nobel a Fermi, che sono tra l'altro di scissione naturale dell'atomo, non sono compresi dal gruppo. L'esperimento con cui Fermi vince il premio Nobel è un esperimento che lui stesso aveva difficoltà a interpretare. Contemporaneamente i importanti scienziati tedeschi all'Università di Berlino sono anche loro alle prese con un esperimento simile a quello di Fermi e neanche loro riescono a capire cosa hanno ottenuto, in particolare Otto Hahn, fatto che poi porterà a tutte quelle storie sulla bomba atomica tedesca, come mai i tedeschi hanno fatto la bomba atomica, eccetera, eccetera, che ci sono molte ragioni storiche, ma uno soprattutto perché il gruppo che era più all'avanguardia, anche lui non riesce a capire l'esperimento e loro, anche loro nell'Università di Berlino, quella che ora si chiama Humboldt, ottengono una rottura del nucleo atomico ma non se ne rendono conto. Quindi quando la fantascienza parla di scienziati, energia, ingegneri nucleari, non c'è niente sulla Terra di corrispondente, quindi è un che cosa? Una tensione a superare attraverso la scienza e la tecnica quelle che sono considerati grandi problemi, per esempio gli Stati Uniti, quello del crack economico, della povertà, di un disequilibrio di risorse all'interno della nazione, scontro ricchi e poveri e quant'altro. Dal 1942 in poi, soprattutto con le esplosioni nucleari che avvengono realmente, le tre esplosioni nucleari che avvengono nel 1945, abbastanza rapidamente si comincia a cambiare idea. La fantascienza è la prima che cambia idea sull'energia nucleare. Avete visto questo filmato, un filmato divulgativo rivolto alle scuole, ci sono dei filmati anche del PSCS mi pare, e si cerca di divulgare questa cosa nell'idea che la reazione nucleare abbiano anche un aspetto positivo, che è appunto quello della produzione di energia. Però, come dicevo, la fantascienza è una letteratura che si fonda sulle ambiguità, non sulle certezze. Non predice il futuro, come abbiamo detto, ma si chiede quali siano le grandi problematiche che sono all'interno del presente. Quando nel 1945 finisce la Seconda Guerra Mondiale e abbiamo dopo la sconfitta del nazismo la divisione nei due blocchi e nasce quella che viene quasi subito chiamata la Guerra Fredda, il problema del nucleare è un problema fondamentale, perché una delle due nazioni, dei due blocchi che si scontrano e che si confrontano ha un armamento che è assolutamente di una portata distruttiva che non si era mai vista. E questo è uno dei temi importanti e che, come vedremo, praticamente solo la fantascienza affronta criticamente. Quando la Seconda Guerra Mondiale si conclude e i soldati tornano a casa, la nazione ha grandissimi problemi. Intanto il grande presidente, che è Franklin Delano Roosevelt, muore. È sicuramente la persona più di sinistra che sia stata la Casa Bianca nella storia degli Stati Uniti. Aveva compiuto tutta una serie di operazioni che spostavano dal privato verso il pubblico, produzioni industriali, sistemi di controllo e quant'altro. Aveva creato il welfare statunitense che ancora adesso c'è. Quello che noi abbiamo adesso di welfare negli Stati Uniti è un residuo di quello rooseveltiano. E muore praticamente poco prima della fine della guerra, gli subentra il suo vicepresidente che è Truman, sono due repubblicani, due democratici. Nonostante fossero del partito avevano una idea completamente diversa, era di formazione e di idee socialiste, di socialismo di Stato. Roosevelt era sicuramente Truman un forte anticomunista. E quindi con la fine della guerra e la necessità di combattere il nemico comune, la presidenza degli Stati Uniti, che influisce tantissimo sulla politica e su quello che poi la nazione fa, cambia la direzione e comincia a progettare il proprio confronto con l'Unione Sovietica. Quando i soldati ritornano a lavorare, eccetera, eccetera, ci sono una serie di libertà sindacali molto forti negli Stati Uniti che erano state aperte appunto da Roosevelt. All'interno di questa nuova opposizione contro l'Unione Sovietica, che nasce da subito, perché c'è il problema di Berlino, per esempio, che è il luogo su cui con la fine della guerra si scontrano le due nazioni l'idea che aveva Stalin e l'Unione Sovietica che Berlino dovesse essere completamente sotto il blocco sovietico e gli Stati Uniti e gli alleati non la volevano mollare, questa è storia, la sapete. Negli Stati Uniti iniziò un poderoso processo di ristrutturazione interna. Vengono rilanciate una serie di parole d'ordine, in particolare la parola d'ordine era la libertà. Il presidente Roosevelt ha fatto un discorso fondamentale sulle quattro libertà dei cittadini statunitensi, e all'interno di questo c'è una sostituzione tra quella che Roosevelt aveva chiamato esattamente la libertà dal bisogno e dalla paura, viene sostituita dal presidente Truman con libertà di impresa. Sono i discorsi istituzionali che sono la programmazione di quella che è la nazione. E sostituire la libertà dal bisogno e dalla paura alla libertà di impresa porta a un grande processo. Un processo che noi abbiamo conosciuto come europei, identificandolo col maccartismo, ma in realtà nasce molto prima che il senatore McCartney iniziasse la sua denuncia dei comunisti, no? E questo cosa vuol dire? Destrutturazione dei sindacati, per esempio, che erano diventati molto forti, e tutta l'eliminazione di una serie di legislazioni di tipo sociali, soprattutto in campo di tipo operaio sindacale. E quindi cosa succede? Che mentre gli Stati Uniti criticano e iniziano una propaganda ideologica nei confronti dell'Unione Sovietica come luogo in cui sono represse le libertà personali, gli Stati Uniti hanno un contemporaneo processo interno di riduzione delle libertà personali e sindacali. E questo come può avvenire? Con un grande sistema di propaganda che ha sostanzialmente due assi centrali. Il primo asse è quello del consumismo, quindi la libertà di consumo, e l'altro è la paura della guerra nucleare, o meglio la necessità di contrapporsi anche con le armi nucleari a chi? A una nazione, a un'ideologia che era tesa a minare proprio le libertà fondamentali degli Stati Uniti, tra cui proprio la libertà di consumo. Quindi quando la fantascienza inizia a guardare la propria società al ritorno della guerra, i principali scrittori di fantascienza, per esempio del periodo, penso a Frederick Pohl, erano stati soldati, si erano arruolati volontari perché sostanzialmente erano gruppi che provenivano comunque dalla sinistra statunitense, in particolare Frederick Pohl come Isaac Asimov venivano dal Partito Comunista, vanno volontari in guerra e ritornano, e quando ritornano ricominciano a scrivere di queste che sono le due grandi paure per loro. Una, la riduzione delle libertà personali che loro vedono politicamente, ma vedono soprattutto attraverso un sistema sociale che vuole imporre dei consumi. Un terzo dei romanzi di fantascienza che cominciano a uscire in riviste come Galaxy e If, a partire dall'inizio degli anni 50, sono dedicati alla critica del capitalismo e del consumismo. E questo è un grande valore della fantascienza, perché negli Stati Uniti, sotto il maccartismo, solo gli scrittori di fantascienza riescono a criticare l'economia capitalista. Se voi prendete un romanzo che si chiama I mercanti dello spazio, scritto da Frederick Pohl e Cyril Korbluth, è il primo romanzo che chiaramente con forza critica questa idea che le persone devono produrre, che le persone devono consumare, che il sistema della pubblicità sia un sistema che ti convince a desiderare delle cose che non ti servono e che quindi tu devi impegnare tutta la tua vita personale e sociale attraverso il sistema dei consumi. E questo garetto da cosa? Come fa a tenere questo grande inganno? Che poi ha non solo il scrittore di fantascienza, ma per esempio Vance Packard, I persuasori occulti, Il grande saggio, e anche Mills quando parla dell'elite, i sociologi cominciano anche loro a individuare questa trasformazione della società statunitense. L'idea del grande nemico che ti può distruggere è quella che tiene insieme proprio questa nuova idea di società, di società del consumo. Quindi la cosa che io propongo è di non vedere questi film, come adesso poi stasera vedrete Il Dottor Strano Amore, ma ce ne sono stati molti altri. L'Ultima Spiaggia è un film molto importante che è circolato, è scoppiata la guerra atomica e solo l'Australia non è ancora stata colpita dal vento che porta le radiazioni, quindi con un sottomarino parte una missione australiana verso gli Stati Uniti per vedere se ci sono sopravvissuti, e sopravvissuti non ce ne sono. Oppure altri film come 5 giorni a maggio e altri che comunque descrivono questa problematica del nemico con moltissime ambiguità, perché riescono comunque già a sfuggire dalla censura che c'è su questo argomento. Ecco, la grande paura della rappresaglia, dell'attacco atomico da parte dell'Unione Sovietica, sono quelli che comunque servono all'interno a ristrutturare un potere ad alcune elite, potere che prosegue ancora oggi, e a lanciare e a opporsi a una propria civiltà dei consumi, a quella che è l'idea che viene data alla società sovietica, proprio come una società in cui mancano i consumi. In tutti i moltissimi discorsi che vengono fatti sia dal presidente che dal suo staff eccetera eccetera, Truman e poi Eisenhower, c'è sempre una forte sottolineatura dell'Unione Sovietica come la dittatura della penuria, a cui si oppone invece la libertà dell'abbondanza, libertà che però molti criticavano e non vedevano. Se voi prendete un film come L'invasione degli ultracorpi, non so se qualcuno l'ha visto, che è un film che è stato considerato un film politico molto importante, nell'invasione degli ultracorpi cosa succede? Ci sono degli specie di cosi extraterrestri, dei baccelli, che vengono messi a fianco alle persone che dormono, e questo baccello si trasforma in un corpo che è un corpo uguale, identico a quello della persona, e la sostituisce. Sono però collegati tra di loro e quant'altro, e all'inizio venne visto come una lettura di una società massificata, come poteva essere quella sovietica e quella cinese, eccetera, eccetera. Il regista Don Siegel, un regista tra l'altro non di sinistra, è il primo che fa il film dell'ispettore Callaghan, per esempio, l'ispettore Callaghan, La Casa Scorpio è tuo, invece poi racconta dopo che la sua idea era proprio di fare un film completamente diverso, un film proprio contro la persecuzione che veniva fatta degli intellettuali hollywoodiani, quando in realtà molti sceneggiatori, molti registi non poterono più lavorare perché erano stati considerati vicini o affiliati al Partito Comunista, e per criticare l'indifferenza che il mondo della cultura aveva nei confronti dei colleghi e degli amici che venivano di volta in volta accusati e che perdevano lavoro. È uscito un film recente su Trumbo, lo sceneggiatore Trumbo, qualcuno potrebbe averlo visto. Trumbo, che vince 2 Oscar per la sceneggiatura, li vince, ne vince almeno uno sotto pseudonimo, perché questi scrittori che erano nella lista nera vedevano la sceneggiatura e poi trovavano un amico che le firmava, e quindi loro potevano continuare a lavorare e quindi a campare, perché altrimenti erano, da chi era in questa lista nera, che perdevano i posti all'università, perdevano i posti nelle scuole, perdevano i posti in tutta l'area della cultura, erano destinati alla totale emarginazione. Molti emigrano, vanno in Francia per esempio, molti si suicidano, molti passano dall'essere una intellettuale, scrittore, ha una vita di totale marginalità. E quindi la fantascienza, anche di questo tipo di società, una società vigliacca a un certo punto, una società che abbandona quelle che sono le sue idee costituzionali, che sono soprattutto quelle della libertà dell'individuo di poter esprimere le proprie idee, vedono nelle nuove amministrazioni, sia democratiche che repubblicane, il tradimento degli ideali che erano stati all'inizio della rivoluzione statunitense. E quindi in quegli anni, se noi leggiamo l'immaginario, troviamo questo immaginario duplice che da un lato denuncia la falsità e l'inutilità del mondo dei consumi, in altri romanzi denuncia che cosa? Che al governo non ci sono i rappresentanti del popolo, ma ci sono delle élite che si scambiano e si tramandano il potere al loro interno, al di là dei meccanismi elettorali e dei meccanismi di rappresentanza. Se voi leggete uno scrittore come Philip Dick, il suo primo romanzo si chiama orribilmente Lotteria Solare, mi pare, l'ho tradotto io tra l'altro, ma il titolo non l'avevo scelto io, Solar Lottery, si chiama la Lotteria del Sistema Solare, è stato tradotto come Lotteria dello Spazio o qualcosa del genere. Beh, ci racconta che cosa? Di come questo presidente dell'Unione del Sistema venga scelto a sorte da un macchinario, no? E che quindi è la massima rappresentanza della della democraticità, del fatto che non ci sia una permanenza del potere eccessiva da fare qualcuno di scappare con un altro, e della storia di che cosa? Di fatto che questo meccanismo in realtà è sabotato e che quindi il super presidente, che è il presidente della Terra, il presidente rappresenta il presidente degli Stati Uniti, in questo sciocco romanzo di fantascienza in realtà comincia già alla fine degli anni 50 a porre dei dubbi su quelli che sono i meccanismi della rappresentanza, no? Dentro questo appunto, quindi, la fantascienza denuncia sostanzialmente un sistema di propaganda alla quale si vuole opporre attraverso delle storie collocate in mondi immaginari, in situazioni immaginarie, che però siano in grado di parlare più radicalmente di tutti questi problemi. Quando la fantascienza affronta il problema nucleare, per esempio nel film che viene visto dopo, il film è inglese, però è un film sugli Stati Uniti o su come gli europei vedono gli statunitensi, ci sono molte interpretazioni. Stanley Kubrick è sicuramente una persona che conosce, è vissuto negli Stati Uniti, conosce molto bene gli Stati Uniti, però comunque c'è un suo taglio nel vederli, e che forse è quello che ha rappresentato il personaggio del colonnello inglese, se qualcuno della film si chiama Mandrake. E beh, lì c'è una commedia, è una commedia nera, perché il film finisce molto male, potremmo dire, però fa anche molto ridere, le situazioni sono grottesche, paradossali, però ci sono tutti gli elementi, c'è l'ossessione verso il comunismo. E c'è anche che cosa? E questo è molto interessante, soprattutto nella figura del generale, che adesso non so se conoscete già la trama, comunque dall'inizio questo si può dire, la storia cos'è? La storia è di un generale che impazzisce e che ha la possibilità di ordinare a una squadra di bombardieri di andare verso l'Unione Sovietica e bombardare per provocare una reazione e costringere gli Stati Uniti a fare la guerra nucleare. Questo è chiaro sin dall'inizio, ma ed è chiaro sin dall'inizio che questo è un piano delirante. È il piano di un pazzo che vede che cosa? Un grande complotto contro se stesso, un grande complotto contro la sua nazione, perché è convinto che alla base di tutto ci sia il fatto che i sovietici, le spie sovietiche che sono infiltrate nella popolazione degli Stati Uniti, quelle sostanzialmente delle serie TV The Americans, qualcuno l'ha vista, stiano avvelenando col fluoro l'acqua, no, dell'intera nazione, e questo provoca un avvelenamento collettivo che lui deve impedire, e il modo per impedirlo è provocare la guerra, per costringere gli Stati Uniti a dover rispondere a un contrattacco sovietico, e quindi inizia la guerra nucleare. Il film secondo me è molto interessante da questo punto di vista, perché fa vedere soprattutto una cosa, l'autoreferenzialità del potere, al di là della persona del presidente, però è evidente che quando voi vedete il film questo presidente è una figura isolata, molte delle scene si svolgono in questa specie di stanza senza finestre in cui ci sono le persone più importanti della difesa, ci sono il presidente, il suo staff e i generali. Ma è chiaro che questo presidente è mal circondato, perché comunque tutti i generali in un qualche modo ci dimostrano la loro totale irrazionalità, la loro totale perversione nel vedere comunque l'obiettivo militare come l'obiettivo più importante indipendentemente dalle conseguenze. Tutta la questione della guerra fredda venne vissuta, io posso dire che una quindicina d'anni durante la guerra fredda inconsapevolmente li ho vissuti, perché ho 60 anni, quindi più o meno facciamo dal 75 al 70, all'89, insomma. Per esempio mi ricordo quando di Saigon, ecco, dalla fine della guerra del Vietnam, e c'era questa idea un po', non tanto in me ma nelle cose che leggevo, che alcuni meccanismi autoreferenziali potessero provocare la guerra nucleare e quindi la distruzione completa del pianeta, anche perché noi vivevamo, si viveva, le informazioni storiche ci dicono che gli arsenali nucleari erano talmente ridondanti in cui per la distruzione completa della Terra sarebbe bastato l'1% dell'arsenale nucleare. Quindi la forza agli armamenti, che comunque credo che valga la pena che qualche storico rilegga anche dal punto di vista della storia industriale, della storia dei grandi, delle grandi corporate che producevano nella filiera del nucleare, quindi archivano se stessi e i loro azionisti, perché sicuramente avere un sulla Terra diffuso un così ridondante armamento è sicuramente legato dal fatto che molta gente ci guadagnava, molte aziende guadagnavano e facevano la loro ricchezza e sostenevano presidenti con questo, su una produzione che non era indispensabile per fare la guerra. Passaggio dalla bomba atomica alla bomba H, prima vengono costruite sostanzialmente tutta la Terra grandi missili transoceanici alti 50 metri eccetera eccetera, e quando tutta la Terra si riempie di questi vettori, il mondo industriale statunitense e poi seguito quello sovietico invece fa i missili di piccola taglia, i cosiddetti Pershing Cruise e i famosi S-20 sovietici, che sono alti 3 metri, potevano essere trasferiti, trasportati da una camionetta, da una jeep, e portavano ed erano precisissimi. Già negli anni, metà degli anni 80, un missile cosiddetto a corto raggio, di questi qua, alto 3 metri, aveva una precisione di qualche metro. Voi pensate, una bomba nucleare, qualche metro, insomma, non è un grosso problema, tipo 5 o 6 metri, perché già all'epoca montavano nella loro centralina, diciamo, la mappa del territorio sovietico piuttosto che del territorio degli alleati, la mappa in modo tale che nel caso venissero sviati dal sistema eccetera eccetera fossero in grado nel raggio di qualche chilometro di riorientarsi e riandare nella rotta. E quando poi arrivavano, ecco, quindi vedete che tutta la storia degli armamenti nucleari è sicuramente la storia di un grande spreco, che porta però a grandi industrie statunitensi fatturati e profitti altissimi, e questo ce lo dimostra proprio la ridondanza dell'armamento nucleare. Armamento nucleare che oggi è in realtà praticamente attivo ancora, con la polverizzazione dell'Unione Sovietica è diviso in più nazioni di prima, le nazioni che hanno un armamento classicamente erano gli Stati Uniti, autonomo erano gli Stati Uniti, l'Unione Sovietica, la Francia, la Gran Bretagna, Israele dagli anni 60, Pakistan, India e Corea del Nord, con l'89, 90, 91, con l'indipendenza degli stati che componevano l'URSS, è suddiviso in tutti. Kazakistan per esempio ne ha tantissime, perché Kazakistan tra l'altro aveva il poligono nucleare su cui, ed è, credo che sia uno di quelli che si vedono, venivano fatti gli esperimenti sotterranei in Kazakistan, quindi ci sono, non mi ricordo se 7-8 mila testate nucleari ancora adesso, che sono per queste nazioni fonte di grande ricchezza, nel senso che per smantellarle ottengono dei soldi. Quindi c'è tutto un business che dall'inizio era venuto fuori, cioè da quando comunque alla fine del 1945 le grandi industrie che avevano retto la costruzione degli armamenti e un certo livello di occupazione negli Stati Uniti hanno il rischio di smantellamento con la pace, Voi dovete pensare che in una nazione, quando finisce la guerra, c'è una, di solito c'è una crisi di tipo economico, perché tutto il militare, che va dalle armi alle divise, all'abbigliamento, alle sussistenze, alle tornamenti e quell'altro, cessa di essere pagato dallo Stato. E l'abbiamo avuto anche in Italia nel 1945, i licenziamenti dopo la, subito dopo la guerra, il famoso quello dell'Officina Reggiana. E anche negli Stati Uniti, ma negli Stati Uniti in maniera molto geniale una serie di lobby, secondo me attorno al Presidente, rilancia su questo e immediatamente, e questo anche, voi pensate che negli Stati Uniti dal 1945 al 60 c'è il raddoppio del prodotto interno lordo, non è una cosa da poco, è un prodotto interno lordo che viene, che cosa? Viene garantito da una serie di guerre, dalla guerra fredda, gli investimenti sul nucleare, gli investimenti sull'aviazione, i sottomarini, energia nucleare con l'armamento nucleare e quant'altro, la guerra di Corea, una guerra convenzionale, per fortuna, eccetera, eccetera. E questo, che la sfida della guerra fredda è stata comunque una sfida anche di carattere di tipo economico, che ha posto in collisione la capacità produttiva degli Stati Uniti con la capacità produttiva sovietica inferiore, fino a che questa guerra fredda, per fortuna, non è finita come quella del film Stanley Kubrick, ma è finita col collasso economico dell'Unione Sovietica, la quale non era più in grado di mantenere il livello di ricerca e sviluppo che gli Stati Uniti erano in grado di portare avanti. E quindi, ritornando un po' alla fantascienza, ma secondo me non si può fare la storia della fantascienza senza fare la storia delle società in cui queste si sviluppano. Uno scrittore, mi pare John Kessel, l'ha detto: la fantascienza parla più dell'anno in cui è stata scritta che dell'anno in cui è ambientata. Questa secondo me è la definizione più bella e più vera della fantascienza, anche perché se noi andiamo a vedere, questo è interessante, non c'è un libro che parli specificatamente di questo, però ci sono una serie di storie che parlano della guerra nucleare, in cui la guerra nucleare è avvenuta. Tra l'altro ne segnalo uno italiano, di Mario Soldati, che non mi ricordo come si chiama, che si svolge in un dopobomba in cui c'è una fascia radioattiva che divide l'Italia in due, lo Smeraldo si chiama, mi pare. Sì, lo Smeraldo. È stato bruciato un bombardamento nucleare all'altezza di Roma, Roma è abbandonata, sono passati molti anni, c'è uno stato al sud, a Napoli, di dominazione arabeggiante, e c'è uno stato a nord filosovietico. In particolare ci sono delle belle descrizioni della Genova del futuro fatte da Soldati. Beh, per esempio, quindi, quando voi vedete l'immaginario, anche uno scrittore classico nostro, come poteva essere Mario Soldati, inventa una storia di quel genere lì. Storie importanti, forse la più importante della fantascienza è Un cantico per Leibovitz. Perché? Perché in molte di queste storie, ce ne sono tantissime, c'è la guerra nucleare, la nostra struttura sociale si autodistrugge, ci sono queste nuove creature che sono i mutanti, che sono persone che sono state geneticamente modificate dall'esplosione nucleare, quindi quando si riproducono hanno una morfologia e a volte delle capacità diverse dalla nostra. E c'è quindi una nuova terra, spesso medievale, spesso rurale, spesso comunque non industrializzata, che nel futuro si sviluppa su questa terra dove è venuta la guerra. Philip Dick, ancora lui, è la persona che vive dentro questi meccanismi, perché è una persona che sta dentro le problematiche anche della sinistra statunitense in qualche modo, non è uno che si coinvolge, però sicuramente non è un conservatore, è interessato a queste idee della pace. Negli anni 60 in Inghilterra e negli Stati Uniti nascono due movimenti per la pace, per il disarmo. Dal movimento inglese poi verranno anche, che nel 64-65 poi verranno fuori anche in maniera un po' diversa alcune istanze del post 68 da noi, e quindi stava dentro quei movimenti. La questione nucleare è ricorrente. Cito un racconto breve, si chiama The Golden Man, non mi ricordo come si chiami in italiano. The Golden Man è un uomo che ha la pelle d'oro, eh? L'uomo variabile. No, la variabile è un altro, perché non è stato tradotto l'uomo d'oro, per qualche motivo. È stato chiamato, non saremo noi forse. Vabbè, che è un uomo, lì c'è tutta una lettura, perché questo mutante, che è d'oro, si vede, si direbbe un fenotipo, ma anche un genotipo diverso dal nostro, e quindi da un lato, attraverso questi mutanti, gli Stati Uniti sono capaci di leggere le loro problematiche della loro segregazione razziale. E questo è tutto un tema grande della fantascienza, perché vengono fuori queste storie sugli alieni o sui mutanti, che sono i nostri figli ma sono diversi da noi, e quindi c'è questa duplice problematica del riconoscimento o della distruzione, no? Che esistono contemporaneamente. Quindi sono questo. E c'è anche questa idea comunque delle nuove capacità, della diversità. Ad esempio, da The Golden Man è stato tratto in maniera molto bizzarra il film Next, con Nicolas Cage, mi pare, che lui è in grado, non è l'uomo d'oro, però c'aveva questo, è in grado di vedere il futuro dopo pochi istanti, no? Prego? Entro due minuti. Eh? Entro due minuti riusciva a vedere. Ah, sì, infatti giocava alla roulette. Non eravamo noi. Non eravamo noi, eh? Sì, me lo ricordo. Pessima. Non saremo noi. Produzione veramente poco. Non tanto buona, direi. Anche perché poi è il nome dell'antologia. Poi esce questo Golden Man, è una delle prime antologie che. Dal nome alla raccolta, che escono negli Stati Uniti, ed è uno dei suoi grandi successi commerciali. E un altro è Cronaca del dopo bomba, che in originale si chiama Dr. Blood Money. Ed è una storia veramente interessante, perché ci sono questi Stati Uniti post-nucleari, in cui la guerra è avvenuta, e ci sono questi mutanti, queste persone che la guerra nucleare ha reso così diverse da noi, che hanno strani poteri, hanno strane capacità, contemporaneamente sono deboli, e che è anche una cosa che in tutto l'immaginario statunitense vive, perché poi voi tutti conoscete l'immaginario della Marvel. L'immaginario della Marvel è in origine un immaginario di carattere nucleare. L'uomo ragno viene spinzato da un ragno su cui facevano un esperimento. Devil diventa cieco, ma assume una potenzialità sensoriale da che cosa? Da dei rifiuti industriali che viene colpito, ma da. I Fantastici 4 sono quattro persone normali che attraversano un'esplosione nucleare di prova, eccetera, eccetera, e si ritrovano alla fine del viaggio che hanno tutte queste capacità. La grandezza di Kirby e della Marvel è che associava a questi grandi poteri, e avevano comunque una debolezza delle persone. Dick ha la stessa modalità di visione, i suoi mutanti, le persone che hanno delle specialità, contemporaneamente le pagano essendo più deboli, avendo una vita sociale più difficile. Devil cieco, Peter Parker l'uomo ragno non trova mai la fidanzata, almeno nei fumetti, nei film non lo so, eccetera eccetera. Sono asociali, sono poveri, cioè sono diversi da Batman che viene prima, che è un super ricco, guardate. Questi sono, quando non si mettono la loro maschera, sono dei poveracci, eh? Gli Fantastici 4 non tanto, però i due principali sì. Ecco, questi sono tutti gli elementi di come questa paura del nucleare, alcuni autori, la fantascienza, i fumetti, il cinema, riescono a rileggerla, riescono a riflettere su se stessi, no? Voi tenete conto perché c'è un immaginario così forte? Secondo me anche sempre per un motivo di tipo di propaganda industriale. La questione della guerra nucleare, secondo me, è stata gestita in modo tale che ci fosse più paura nella nazione. Un libro adesso che parla proprio, quando nel 1947 parla della storia del concetto di libertà negli Stati Uniti, il libro di Foner, si intitola proprio Storia della libertà negli Stati Uniti, fa vedere come nel 1947 gli staff del presidente cercano di gestire questa guerra fredda, cercano di gestire a loro vantaggio. E in due occasioni è testimoniato dalle fonti che c'è una esagerazione dell'amministrazione per quanto riguarda la potenzialità del nemico. In uno proprio dice, quando doveva parlare Truman e il suo assistente, dice, li dobbiamo terrorizzare. Dobbiamo terrorizzare chi? I cittadini degli Stati Uniti, non certo l'Unione Sovietica. Analogamente, anche questo ormai è storicamente dimostrato dai documenti, nel momento in cui i sovietici lanciano lo Sputnik è una specie di scaldabagno, è un affare così, andato, ovviamente andato in orbita, il primo lancio eccetera eccetera, Eisenhower chiama i suoi perché insomma questa cosa qua non era andata molto bene, e subito i generali gli dicono, tra l'altro lui era un generale e non aveva la difesa un militare, ovviamente aveva la difesa un personaggio importante perché si chiama MacLeod, veniva dalla Procter & Gamble, faceva detersivi, era l'uomo che aveva inventato la soap opera, aveva iniziato questa storia tipicamente statunitense con la vendita porta a porta del sapone e dei detersivi ed era diventato l'amministratore delegato. Quando Eisenhower, il generale che aveva vinto la guerra mondiale in Europa, diventa presidente, si prende MacLeod come alla difesa, che non aveva mai visto neanche una fionda. Mentre i generali gli dicono no, ora noi dobbiamo uscire sui giornali, devi fare un discorso dicendo che i sovietici sono dei pezzenti, la nostra superiorità militare è doppia, tripla della loro, se solo s'azzardano li vetrifichiamo eccetera eccetera, MacLeod gli dà un consiglio e gli dice no, diciamo il contrario, diciamo che siamo stati superati dai sovietici, diciamo che siamo in crisi, diciamo che siamo in inferiorità, andiamo alla Camere e ci facciamo dare un sacco di soldi per ripianare questo gap militare che l'avvento dell'esperimento e l'uscita dello Sputnik ha dimostrato a tutti. Cioè, quindi diciamo quello che hanno detto i sovietici. C'è un bel libro che parla questo, in italiano si chiama La storia del futuro, uscito per Feltrinelli, l'aveva curato questa edizione qua, Raff Valvola e Gomma, si chiama appunto La storia del futuro, racconta questa storia. E beh, gli americani quindi raspano tutta una serie di fondi al presidente e li dà all'università per fare cosa? Per finanziare progetti. Finanziare i progetti che ancora oggi vengono fuori da quei finanziamenti, uno era ARPA, quindi la rete internet viene pensata all'interno della guerra fredda, all'interno di questa manipolazione di avere esagerato la potenza sovietica per avere fondi da dare a fondo perduto alle università e alle industrie. Nel giro di pochi anni questi fondi se li prendono ditte che non c'erano, come la Digital Equipment, HP, il router per esempio, prima era un oggetto strano, ora sta praticamente in tutte le case, viene fuori dalla necessità di far funzionare quella antennata di internet che era ARPANET. Quindi tutta una serie di prodotti che vengono fuori dalla ricerca e sviluppo finanziata dallo Stato, dicono le fonti che praticamente chiunque che fosse laureato in fisica, in chimica, in matematica, in ingegneria poteva avere una borsa di studio dopo l'università. Se voleva fare un'azienda gli veniva finanziata dallo Stato, no? Quando lo Stato si indebita per creare il PIL, questa cosa ad esempio in Italia non si usa più perché dobbiamo dare i soldi ai tedeschi invece. Invece lì no, c'è questa grande capacità e tutto quello che poi è venuto fuori dal computer, apparecchi, gli studi sugli infrarossi e quant'altro, vengono fuori. E anche in quel caso lì ci fu una manipolazione della realtà e quindi di spaventare l'opinione pubblica in questa grande idea che comunque io ormai purtroppo ci credo, un po' tipo i persuasori occulti, che comunque ci sia stata da parte degli Stati Uniti, in particolare dopo la Seconda Guerra Mondiale, una strutturata capacità di legata a, adesso sta venendo un po' meno forse, di grande capacità di propaganda, di grande capacità di far passare dei messaggi specifici. E tutta questa questione della guerra nucleare ci sta dentro, perché la grande paura a cui veniva fatta ai cittadini statunitensi serviva a far passare tutto il resto. Quindi questa grande ristrutturazione che avverrà poi alla fine degli anni 70 con la grande crisi industriale, con la crisi che poi è arrivata in Italia, eccetera, eccetera, che doveva passare, che se io credo ci fosse stata una classe operaia coesa, sindacati non fossero stati smantellati, distrutti, eccetera, eccetera, negli anni precedenti, probabilmente il nostro signor Reagan e le teorie neoliberiste avrebbero avuto qualche problema. Quanto... Beh, possiamo lasciare un po' di spazio. Sì, sì, no, io mi devo un po' d'acqua. E ok, se vuoi concludere o possiamo... Concludere non lo so io come concludere. Ora partiamo. Consiglio a tutti di rivedere questo film. Io l'ho visto la settimana scorsa, ma poco non lo vedevo, e l'ho trovato straordinario, veramente straordinario, perché proprio queste caricature riescono a leggere le varie componenti. È un po' come una tragedia greca in un qualche modo, no? Ogni personaggio estremizza una tipologia non tanto di persona, ma di componente di tipo politico-sociale. E quindi è bravissimo, perché quel film lì è un vero paradigma della società statunitense, e probabilmente di come gli intellettuali, allontanandosi dal problema di McCarthy, cominciano a vedere, a criticare la società. Quindi se mi date una mano e parlate voi, ti lasciamo il tempo per bere un po' di acqua. Grazie mille per l'intervento. Come al solito abbiamo chiamato dialogo, perché appunto il bello sarebbe che parta una chiacchierata prima della cena, che dopo spiegheremo, giusto? Sì. La ricetta di oggi. C'è qualcuno che vuole intervenire? Qualche spunto? Qualche... Vabbè, una cosa veloce. Una cosa veloce? Chi c'era? Uno su una mano. Devi venire qua però, perché... Sì, vuoi dell'acqua? No, non ce l'ho loro. No. Volevo solamente chiedere se hai qualche riflessione sulla fantascienza invece giapponese, in particolare quella pop con cui tutti siamo cresciuti, i robottoni e queste robe qua, che è la fantascienza o altri prodotti culturali prodotti dall'unico popolo che si è preso due bombe atomiche sulla testa, i due bombardamenti con maggior numero di civili, cioè bombardamenti su città con il maggior numero di civili uccisi. Sì, mi sono dimenticato. Allora, non sono un grande esperto, voglio dire, della grande stagione, soprattutto del cartone animato e del fumetto giapponese. Però sicuramente negli anni 60 escono fuori una serie di film in cui i giapponesi riflettono su quello che è successo, e sono i famosi film dei mostri, che sono i famosi di tutti, è Godzilla. Poi c'è un altro che si chiama Rodan il mostro alato, cioè sono tutta una serie di che cosa? Sono creature mostruose che attraverso le radiazioni assumono dimensioni gigantesche, quindi che sono specie di super bestie. Anche in Europa e nel mondo occidentale ci sono film del genere, uno si chiama L'Amantide Omicida. Vengono tutti, rileggono il pericolo nucleare, rileggono le mutazioni che le radiazioni sono in grado di provocare. Voi sapete che la mutazione è un elemento fondamentale della nostra evoluzione, io sono un darwiniano convinto. E come avviene questa mutazione in maniera normale? Avviene comunque nella maggior parte dei casi attraverso le radiazioni, che sono la radiazione solare e la radiazione cosmica. Dal punto di vista fisico, noi siamo comunque attraversati da una serie di particelle elementari, perché il Sole produce radiazioni di vario genere attraverso il meccanismo di fusione, e dalla radiazione cosmica ci arrivano una serie di cose. Chiaramente cosa succede? Quindi queste cosa fanno? Rompono le particelle che ci attraversano, sono in grado di rompere la catena del DNA che si riconnette con dei riparatori, in molti casi non si riconnette esattamente, voi ricordate che il DNA è una copia, e quindi l'elemento nuovo attraverso poi l'unione con un altro DNA può avere delle diversità. Nella maggior parte dei casi le mutazioni sono negative, cioè non portano a nessun individuo, in alcuni casi possono portarlo, e quindi nella nostra storia evolutiva ci sta una componente casuale di ricombinazione del DNA che deriva dalla radiazione. È chiaro che la guerra nucleare ci sottopone una quantità di radiazioni assolutamente che è enorme rispetto a quella della radiazione naturale. Noi abbiamo una radiazione naturale che comunque deriva dal fatto che nelle rocce ci sono degli elementi radioattivi. Pensate alla presenza di uranio in Val d'Aosta, in Val di Susa o di altri isotopi che ci sono. Quindi viene fuori nell'immaginario un'idea del cosa, che se tu la radiazione colpisce il DNA, questo DNA può degenerare e creare delle creature mostruose. Questa idea è forte nella fantascienza, viene fuori da un romanzo molto bello di Wells, quindi dell'inizio del Novecento, che è l'isola del dottor Moreau. Il dottor Moreau è una specie di scienziato stregone, come ce ne sono tanti, che attraverso i suoi esperimenti è in grado di modificare gli animali. La fantascienza giapponese quando nasce, tra l'altro c'è un bellissimo film di Noshiro Honda che si intitola Uomini H, no? Quindi con H proprio legato alla bomba H, e loro hanno tutto un loro modo di affrontare questo spavento, questa cosa, appunto perché, come diceva l'amico, si sono beccati due bombe sulla testa. In realtà pare che ci siano due stati durante la seconda guerra mondiale, due bombardamenti convenzionali che abbiano fatto più morti addirittura di Hiroshima, sono quello di Dresda e quello di Tokyo. Tokyo tra l'altro venne bombardata col fosforo, che era bombe che erano state studiate apposta per innescare gli incendi nelle case giapponesi che erano fortemente di legno. C'è un bellissimo saggio di Mike Davis, che è conosciuto per La città di quarzo e altri saggi, che ha ricostruito proprio come ci fosse un rapporto tra gli architetti e persone che si occupavano di strutture delle case di arredamento e chimici che si occupavano delle bombe al fosforo durante la seconda guerra mondiale, per ottimizzare in funzione del tipo di abitazioni le capacità distruttive delle bombe. Ecco. Però chiaramente il bombardamento di Dresda e quello di Tokyo durano 24 ore con centinaia di aerei. Hiroshima e Nagasaki andarono due aerei, un ricognitore, è vero che non, che si sarebbero morti lo stesso, però non ci fu l'allarme quando scoppiarono le bombe nucleari, perché gli aerei erano troppo pochi, quindi la difesa aerea, quando arrivò il B-29 mi pare con la bomba e l'aereo di protezione, il ricognitore, venne scambiati per un'azione di ricognizione, e quindi nessuno scappò. Quindi quando arrivò la bomba, le persone, la città stava facendo una vita normale, non erano nei rifugi. Chiaro, una distruzione che è fatta con una bomba. Negli anni successivi, quindi la fantascienza giapponese ha già, almeno io conosco solo quella dei film, non so quella sulla carta come fosse, appunto riscrive in maniera autonoma la propria storia, la propria difficoltà, la storia di queste città che erano state distrutte, e poi riporta nella serie successiva questa grande produzione di questa loro, che è il modo, secondo me, cui i giapponesi si sono presentati al mondo nel dopoguerra, cioè come quelli che hanno avuto l'esperienza nucleare. Ecco. E tra l'altro sarebbe così interessante, anche se tragico, capire anche questa cosa della centrale nucleare che viene abbattuta, tanto poi loro fanno una scelta nucleare civile molto forte, molto fiduciosi della loro ingegneria, incappano nel, chiaramente, purtroppo, nella cosa, come si dice, l'imprevisto più assoluto, che arriva un maremoto su una centrale che stava sul mare. Voi tenete conto che le centrali nucleari stanno sui fiumi, infatti Chernobyl stava sul fiume. Three Mile Island. Esatto, Three Mile Island, anche perché l'acqua del fiume servono per il raffreddamento delle turbine. E tra l'altro il fungo di Chernobyl credo sia venuto proprio perché con la temperatura che saliva e non riuscivano a... perché la reazione era andata fuori controllo, i moderatori della reazione non funzionavano, credo che abbiano deviato il fiume dentro la centrale proprio, e da lì c'è stata, perché la centrale non è esplosa, Chernobyl è stata come la bomba, però questo vapore poi è andato e ha formato la nube, eccetera eccetera, quindi questo è successo. Giuliano, vedo. No, io volevo dire una cosa sul film, poi accennato all'inizio, di questo generale che praticamente impazzisce, perché pensa che ci sia questo fluido che praticamente rende impotenti, questo è il suo problema. Sì, sì, sì, sì, sì. E da qui credo che Kubrick abbia colto molto bene quello che è l'immaginario costitutivo della bomba atomica, che è questa cosa molto di un fallo che praticamente ha un orgasmo, questo e da qui parte l'idea che si possa amare la bomba atomica, infatti il sottotitolo del film è "Come ho imparato a non preoccuparmi ad amare la bomba atomica". C'è un'altra immagine invece molto simbolica rispetto alla bomba atomica, che è stata praticamente censurata, e che è l'immagine dell'ombra proiettata sui muri di Hiroshima o sul selciato. Questa è un'immagine difficilmente che si vede con molta difficoltà, e praticamente credo che sia stata ripresa solo in alcuni film giapponesi recenti. Su questo, perché questo è veramente una cosa inquietante, non ha nulla di... non esprime, sì, la paura di questo simbolo fallico dell'esplosione fa paura, ma incute anche un'idea di una potenza molto maschile, molto virile, molto combattiva rispetto a una natura che è da dominare, una sfida che si può perdere ma si può anche vincere. Mentre invece l'ombra che si distacca dal corpo è qualcosa che ci terrorizza, perché ci rende appunto impotenti, e ci fa capire quanto in realtà siamo legati alla natura, e sfidare la natura vuol dire sfidare in realtà noi stessi. È una guerra che dichiariamo a noi stessi. Sì. Ecco, una cosa, io poi di psicanalisi sono abbastanza ignorante, però una cosa che ho visto rivedendo il film qualche giorno fa è proprio questa idea dell'elite. Questo gruppo ristretto, chiuso in questa stanza, e il presidente degli Stati Uniti, il segretario del Partito Comunista dell'Unione Sovietica dall'altra parte, mezzo ubriaco, quindi questa storia del destino della Terra, e poi c'è questo ambasciatore proprio che ricorda proprio i discorsi della propaganda, perché c'è il buffet, allora insomma finalmente si ritrova nella molto in maniera grottesca, che nell'abbondanza, no? Che si mette, che comunque veramente il destino di miliardi di persone è fosse in mano a pochissime persone. Cioè, questa è una cosa che mi ha colpito, e che secondo me c'è questa consapevolezza, perché in questo film praticamente non ci sono comparse, non ci sono quelli che stanno dentro la sala, c'è l'amante, qualche soldato qua e là che corre avanti e indietro. È un film in cui ci sono praticamente i generali e Peter Sellers che fa tre parti, che quindi è un iperprotagonista. Ti dà un'idea proprio del potere, secondo me, questo qua e non l'ho mai letto, però è proprio un film sul potere, sul proprio fatto che siano certe cose, certe capacità di fare, di decidere, di un numero ristrettissimo di persone, che le elite, le gerarchie ci siano proprio evolute e difese per ridurre il potere a pochissime persone, che si chiamano, cioè comunque sia lì questo telefono rosso, la Terra è stata nelle mani di queste due persone in un qualche modo più o meno forse davvero, ecco. C'è qualche altro intervento? Là, c'è un intervento da te. Sì, sì, fai pure. Quando tu parlavi degli anni 50, di quella un po' la narrazione del periodo, mi sono venuto in mente i Marziani, Dischi Warranty e tutta la produzione culturale che c'è stata attorno a questo negli Stati Uniti. C'è una correlazione tra, diciamo, questo periodo della prima guerra, della prima bomba atomica, eccetera, eccetera, e tutta la produzione fantascientifica che ci fu sui Marziani, sull'invasione, tutto quello? Sì, ci sono varie teorie letterarie, chiaramente, ma anche sociologica. La mia è che la fantascienza sia un'espressione politica, soprattutto, che tra l'altro politica anche un po' subdola in qualche modo, perché essendo poi considerata una narrativa di evasione, si penetra in tutti gli strati della società, no? Perché classicamente il romanzo di fantascienza, il film di fantascienza, eccetera, eccetera, io come si dice, sono di Genova, era un po' riservato quando ero bambina, quelli un po' abbellinati, no? Che un po' sognatori e quant'altro, eccetera. Però io ora sono abbastanza convinto che sia proprio una forma politica, perché serve l'estrapolazione, no? Quindi io do la lettura del rapporto con gli alieni come una problematica della nostra società. Ed è molto varia, perché è una cosa che ho imparato da Antonio Caronia e dai quelli dell'Ambigotopia, proprio l'ambiguità di questo genere letterario, perché nella fantascienza ci sta tutto al contrario di tutto, nel senso che il suo valore sta nella speculazione, sta nella domanda, non sta nella risposta tanto, no? E quindi c'ha questo approccio di tipo critico, per cui va contro lo stato di cose esistente, no? E va a sfrucugliare quelle cose. E quindi la cosa che io credo che in varie fasi l'alieno abbia rappresentato delle problematiche della società, e soprattutto sicuramente per gli Stati Uniti il loro rapporto con le minoranze, tantissimo. Contemporaneamente, perché fa più cose, non c'è mai una risposta. Contemporaneamente è una cosa a cui credo, rilegge la guerra fredda. Rilegge la guerra fredda, ci sono dei film, ho citato prima l'invasione degli ultracorpi, che è ambiguo, non si capisce se sia una critica alla società sovietica o una critica alla società statunitense, ma ci sono film, per esempio uno è Invasori spaziali, si chiama in italiano, in cui è chiaramente una visione del pericolo sovietico. E quindi ci sono tutta una serie di film, alcuni finanziati anche dall'FBI, questo ormai è storicamente. L'FBI finanzia una serie di film popolari, tra cui uno si chiamava Bello da vedere, è ritornato visibile anche in italiano non mi ricordo, si chiamava sostanzialmente Ho sposato un comunista. È un grande film, interessante, la storia di un sindacalista, insomma, è proprio bello. Ecco, in quel periodo lì, anche siccome abbiamo visto prima anche come la Walt Disney, no? Si occupava di divulgare sia la scienza, ma non è divulgazione della scienza, è una divulgazione, un'interpretazione positiva dell'energia atomica. Cioè non è scienza astratta, è una visione della scienza che presenta l'energia atomica senza le ambiguità che ha del rapporto, come abbiamo detto stasera in tutte le stanze, di vantaggi e svantaggi. Di essere, non essere pubblica, ma di proprietà di poche persone. Quindi sì, sicuramente. E poi come la figura degli alieni, la figura dell'alieno cambia nel cinema di fantascienza, nella natura di fantascienza, fino ad arrivare negli anni 60, che comincia a interpretare attraverso un romanzo fondamentale di un autore che è erroneamente considerato di destra, che si chiama Heinlein, ma il romanzo è Straniero in terra straniera, che è uno dei romanzi sulla nuova sinistra statunitense, il nuovo modo di pensare dopo il macartismo, la libertà, la generazione rock e quant'altro, tra i più belli che ci siano, ed è la storia di una specie di semialieno che arriva sulla Terra, eccetera, eccetera, eccetera. questo straniero senza straniera fu negli anni 60 negli Stati Uniti, di tutta l'area, la Bibbia diciamo, di tutta la componente del movimento più di tipo creativo, legato alla musica, eccetera, eccetera. Non la parte, sicuramente, forse non piaceva la parte dell'SDS, diciamo, della parte più rivoluzionaria, più marxista, però sicuramente tutta la componente pacifista, perché questo alieno è pacifista, cioè porta tutta una serie di idee non convenzionali sul rapporto di coppia, sull'uso del denaro, su tutta una serie di cose che è proprio l'utopia di Berkeley, californiana, e quindi da quel punto lì, in cui c'è questo alieno che si chiamava Valentine, mi pare, in poi, eh sì, l'alieno non è più visto come un pericolo, ma è visto come una persona che dice a noi una serie di cose, perché venendo da un mondo diverso dal nostro, ha una capacità, direbbe Sklosky, di straniamento cognitivo che noi non possiamo avere guardando noi stessi. Quindi abbiamo tutta una riflessione. Arrival, che è il film che abbiamo visto, che è un film cinese, viene dalla fantascienza cinese, e secondo me è un po' più indietro rispetto alla fantascienza occidentale. La fantascienza cinese, anche se è un grande successo ed è molto bella, ci riporta a questa cosa un po' da anni 80, diciamo i figli di E.T., in un qualche modo, che sono i nostri specchi deformati, gli alieni, sono capaci di fare qualcosa. Un grande classico che era fuori epoca è stato Ultimatum alla Terra, la storia di un disco volante che atterra davanti alla Casa Bianca per portare ai terrestri un messaggio pacifista. Infatti, quando questo alieno, questo robot esce, circondato dai Marines, riesce a distruggere le armi e non le persone, e tutti rimangono disarmati, questi soldati, tutti incolumi, ed è il primo grande film controcorrente, sta già cambiando un'ondata macartista, un regista che era Robert Wise, mi sembra, riesce a parlare di pacifismo quando ancora, insomma, non era considerato pacifismo una componente di disfattismo negli Stati Uniti. No, a parte che hai tirato fuori Straniero in terra straniera, che credo che sia il libro più bello che abbia mai letto. Onestamente, un libro che si inizia a leggere non puoi staccarti. C'è una di quelle cose che. Sì. E poi è incredibile, appunto, questa cosa che Einstein passa per essere uomo di destra, forse perché era stato militare. No, Einstein secondo me non è di destra. No, anche secondo me non è di destra. Anche perché negli anni 30 era del Partito Socialista, va in guerra, per carità, c'è un suo modo di vedere le cose, sulla guerra del Vietnam la prende male, quello sì, però è quello, nel libro considerato libro fascista della fantascienza, Fanteria dello Spazio. Fanteria dello Spazio, il libro fascista della fantascienza, perché è un libro militarista considerato, il protagonista è il primo protagonista non anglosassone della storia della fantascienza, perché è un filippino che non lo capisci subito, e quindi il signor Ryland, che era poi una testa sua, non è che si dice le cose, e in cui è molto criticato, perché in questo libro c'è un'idea di gestione dello Stato, quindi c'è una interessantissima estrapolazione che in quegli anni viene fatta, perché comunque la Costituzione degli Stati Uniti sta andando a ramengo con macartismo. Lui comunque dice che solo chi si è sacrificato per lo Stato, facendo il militare, andando nelle guerre contro gli alieni, può ritornare ad essere un cittadino. Questa è la questione di considerato di destra, eccetera, eccetera, che sicuramente è una cosa un po' particolare, però che va contestualizzata comunque con altri romanzi di altre persone che erano ben ben più retrivi, perché comunque anche lì ci sono molte ambiguità. Per esempio, Einstein è, appunto, c'è questo protagonista che è filippino, altri sono neri negli altri romanzi, quindi comunque sia, sarà pure di destra, ma c'ha tutta un'idea della cultura interetnica e della parità di diritti indipendenti dalle razze, che è il primo ad averli. Infatti poi scrive il romanzo Straniera terra straniera, che è un romanzo molto libertario. Se qualcuno ha visto la serie TV dedicata a Satana Manson, Aquarius si chiama, per due volte il libro di Island, Stranger in a Stranger Land, è inquadrato. È un capolavoro. Perché a un punto il film si svolge in queste comunità qua un po' libertarie, legate alla musica, eccetera, eccetera, e almeno in due volte ci sono delle persone che leggono il paperback di questo libro. Tanto per dire, anche lì la fantascienza è stata vicina e ha trasferito idee e critiche appunto dall'immaginario alla realtà e viceversa. Poi un'altra cosa sul Giappone, perché prima volevo fare la domanda che ti ho fatto lui. Ma io sul Giappone l'ho svicolata perché certo, in manga non li conosco. Però la cosa che invece mi ha colpito tanto, che mi ha influenzato tanto, è stato quando è uscito la serie di Akira, prima in fumetto e poi quello l'ho visto, sì. Allora, è lì per esempio interessante perché la terza guerra mondiale c'è già stata. È diventata a Neo Tokyo, e la cosa, il derivato della distruzione di Tokyo è che poi dopo, praticamente, 20 anni dopo, ricostruiscono Tokyo e l'ex zona olimpica, quella dove esplosa la bomba nucleare, questi ragazzi di strada incampano in un esperimento del governo che, siccome queste ragazze hanno prodotto dei mutanti, però i mutanti sono rapiti e segregati dal governo giapponese perché hanno la capacità praticamente di distruggere il mondo. L'eredità della bomba nucleare è il fatto che loro hanno questi bambini che sembrano dei vecchi, che però hanno la capacità con dei poteri della mente praticamente di riscatenare un olocausto nucleare. E questo è pazzesco. Sì. Ecco, volevo dire una cosa poi, lui quando abbiamo parlato, per me la fantascienza è un'espressione comunque sostanzialmente statunitense, no? Però è strano, prima abbiamo citato Mario Soldati, ci sono comunque, riguardo alla guerra nucleare, letterati italiani di quelli che con la fantascienza sembrano non c'entrare niente, che hanno messo il problema della guerra nucleare, della distruzione nucleare, della trasformazione della società post-nucleare, che sono Carlo Cassola negli anni 70 era un pacifista convinto, Cassola, uno dei primi militanti assieme a Capitini del movimento pacifista, scrive un romanzo che si chiama Il superstito o il sopravvissuto, e poi una serie di romanzi per Garzanti in cui la bomba atomica cade in Toscana. Lui era toscano e quindi c'è una moria delle persone, una moria degli animali e quant'altro, e lui scrive due romanzi. Ma addirittura nel 1958 considerato un super letterato tradizionale, Corrado Alvaro, che è famoso per i suoi scritti sulla Calabria, nel 1958 scrive il più importante, secondo me, libro della fantascienza italiana, che si chiama Belmoro, che è un romanzo che si svolge in una città che si chiama Magnitudo, che è Roma, dopo la terza guerra mondiale, una guerra nucleare che ha distrutto tutti, in cui l'eugenetica è diffusissima e ci sono delle proiezioni dello Stato nazista su tutto il mondo. È il primo forse che intuisce il problema del concepimento con la riproduzione degli zigoti, vabbè, lui aveva un'idea all'epoca molto cosa, quindi comunque della nascita in provetta, è uno dei primi che ne parla, un romanzo che nella letteratura italiana è totalmente sconosciuto, lui non lo finisce perché muore, è però interessante che anche lì, 1958, uno dei nostri grandi letterati si immagina un'Italia, un mondo post-nucleare, in cui le nuove società che ne vengono fuori sono veramente molto strane. Su un tema che adesso questa sera non abbiamo tanto toccato, ma è quello del nucleare civile, che nella relazione con l'Italia in particolare ha un rapporto molto interessante, perché è una storia lunga oltre 50 anni che per una manciata di settimane ha portato l'Italia a essere terza potenza nucleare civile a metà degli anni 60, perché è stato un teatro di grandi lotte da Comiso a Caorso, perché ha visto una, come dire, contemporaneità infelice ma anche inimmaginabile tra alcuni degli eventi, vabbè, che abbiamo citato, più catastrofici del Novecento, e forse non soltanto, Chernobyl e Fukushima, con un'assonanza temporale fortissima con dei referendum che hanno, come dire, anche attraverso questo tipo di episodi determinato dei cambiamenti importanti, diciamo così, nella storia del paese, ma anche perché voi, cioè noi tutti noi, noi viviamo in un paese che ancora oggi importa più o meno i 3/4 dell'energia che consuma, e una percentuale che a seconda degli anni varia dall'1 al 3% di questi consumi provengono ancora dal nucleare, dall'energia nucleare. E questa cosa è particolare perché al netto appunto dei referendum, dei piani energetici di Berlusconi più 50, meno 50, della costruzione di un discorso, come dire, del superamento della paura dell'olocausto nucleare anche attraverso, come dire, l'insistenza sulle corde di nucleare sicuro, pulito, che è un discorso, come dire, tossico, ma che ha contaminato anche alcuni dei grandi maestri dell'ecologia profonda. Lovelock, con la sua teoria di Gaia, è stato uno dei primi scienziati riconosciuti dal mondo ambientalista e ecologista a sdoganare un discorso che poi sta nel autoproclamato ambientalismo, diciamo, nostrano, di Legambiente, via discorrendo, vede oggi, come dire, alla guida del nucleare italiano da oltre 15 anni tutti gli ex dirigenti di questo tipo di iniziative. Cosa interessante appunto perché si trova ancora in bolletta quando voi guardate, secondo l'operatore, diciamo, il mix di fonti energetiche che compongono i vostri consumi, ancora si trova, lo importiamo dalla Svizzera, dalla Francia. Ma il tema che volevo suggerire, basta perché poi mi sa che siamo addirittura d'arrivo con la cena, era che proprio il nucleare civile, che appunto noi acquistiamo perché ovviamente l'energia nucleare funziona sempre, mentre alcune delle rinnovabili di notte non danno il meglio di sé, e quindi con la scusa che sull'eredità del nucleare francese, in particolare dell'era Chirac, una parte di tutto ciò che andiamo a riprocessare, che sono in particolare, vabbè, roba che deriva dall'ambito medicale, poi ovviamente c'è quello militare, una serie di quello, diciamo, tecnico-scientifico, però sulla scorta di quella produzione, cioè di quel sistema in cui non sarebbe potuto esistere il civile senza il militare, cioè la produzione energetica senza la ricerca militare e viceversa, quindi le due cose non sono mai state storicamente scollegate. Però in qualche misura noi ancora oggi, al netto di tutte le scelte fatte, continuiamo a importare questa energia pulita a basso costo. E la cosa più affascinante è che anche l'altro elemento di nuova verginità, diciamo così, del tema dell'atomico, del nucleare, è che esattamente come le pandemie, no, per dire un tema un po', una paura collettiva un po' più fresca e quindi che, diciamo, sta invece nella narrativa contemporanea, letteratura, cinema e via discorrendo, è proprio il tema della temporalità e il tema della difesa non più del tesoro, del prezioso, del segreto, ma della difesa della paura, del pericolo, del rischio. Cioè, ci pone l'interrogativo sulla custodia dei pericoli che abbiamo creato o con cui non ci sappiamo confrontare. Questo forse è una cosa molto interessante. Noi oggi abbiamo delle scorie del nucleare civile che vengono riprocessate in vari paesi, dal Regno Unito alla Francia e via discorrendo, con degli accordi per cui noi gli diamo un cubetto di materiale nucleare, loro in cambio ci danno 15 tir di scorie tossiche standard, poi le riprocessano, poi in una forma, diciamo, appunto custodita, ritornano, e dal 1999 è attiva una società che si occupa, dal 99, di cercare il sito dello stoccaggio definitivo per il nucleare italiano, no? In barba a qualunque processo di trasparenza, partecipazione, capacità di costruzione di una dialettica, diciamo così, tra una popolazione, un territorio e una decisione di ordine pubblico, se vogliamo. Ecco, la cosa che io trovo interessante era quella che anticipavamo un po' in maniera, diciamo, non tramite un intervento, ma tra i temi che proponevamo nella clip di apertura. Cioè la costruzione di depositi, in questo caso appunto di tipo nucleare, ma credo che in qualche misura, vabbè, in maniera molto diversa, quello delle semenze della Svalbard, però diciamo così, anche per quanto riguarda la gestione delle malattie, appunto di tutti quegli agenti o chimici di particolare pericolosità o batterici, virali, noi oggi la grande paura che abbiamo è quella, nell'epoca anche così, diciamo, della guerra simmetrica e via discorrendo, è la paura di non saper gestire nel tempo questo tipo di luoghi di custodia. E io credo che sia anche la grande forza di chi si ostina in una guerra, come dire, in una battaglia culturale forte contro la presunta energia pulita, perché il costo di gestione di una cosa che devi mantenere per sempre è infinito. Certo. Cioè, una formula, anche io sono uscito col debito in matematica dello scientifico, però credo di non sbagliare se dico che è un costo infinito, perché va gestito in un tempo che è superiore alla nostra capacità di programmazione e via discorrendo. E credo che oggi appunto il nucleare viva di nuove verginità, sicuramente non è più nell'immaginario la bomba, l'olocausto, non è quanto di più mostruoso siamo riusciti a immaginare, ma è quanto di più pericoloso ci ostiniamo a custodire. E quindi in qualche misura ci pone di fronte, credo che Fukushima sia tristemente la metafora più precisa e più recente di questo tipo di timore, però che continua a interrogarci sulla capacità di costruire delle società che abbiano dei punti di caduta talmente a rischio, tema su cui tornerà da un punto di vista alimentare invece Gaia. Bravo Gaia. Allora, sarò breve perché sono scienziata. No, dunque, la pasta di oggi è... Sembri un po' lo scienziato di Independence Day. Hai visto? Scusa. Allora, la pasta di oggi è reginette alle fave, quindi c'è qualcuno affetto da favismo? No, ottimo. Sareste già morti, l'abbiamo scelta apposta quando abbiamo pensato forse al menù di sanno. Oggi esatto, perché viene fuori che solo 50 persone su 100.000 affette da favismo sanno di averlo, un numero enorme ragazzi. E il 4% della popolazione italiana è affetta da favismo, quindi un paio di persone non ce la faranno. Abbiamo scelto questa pasta apposta perché insomma il tema del nucleare ci ha aperto un sacco di fantasie catastrofiche, e quindi il menù è stato scelto apposta. In più abbiamo deciso di mettere anche gli asparagi, così domani ci ricorderemo tutti della serata di oggi. E niente, funziona che il piatto costa 4 euro, si prende là, si paga e si lava. E poi chi si non scende. Lava paga doppio. E poi si scende e si porta giù la sedia. E basta, questo fondamentalmente. Ah, è vegan, nel senso che il pecorino è a parte, per cui chi vuole può aggiungersi pepe e pecorino, che non abbiamo messo nella pasta. E basta, buon appetito.